Radio Big World, buona giornata agli ascoltatori e a te in particolare. In questo momento stai ascoltando questa che vorrebbe essere una conversazione in cui si parlerà di che cosa si parlerà. Ora te ne rendi subito conto. Io credo che non si può rivolgersi a persone diverse e obbligarle a fare la stessa cosa. Non si può obbligare persone differenti a mangiare le stesse vivande, oppure a vestire con identici abiti, oppure a pensare gli stessi pensieri, neppure se queste persone fossero fratelli gemelli. Perché trattare in maniera uguale persone che hanno una storia diversa, che fanno un lavoro diverso, che hanno una cultura diversa, è un errore che sicuramente nel tempo si paga. Una parabola che tutti noi conosciamo racconta di un padrone della vigna che alla fine della giornata diede la stessa paga a chi aveva lavorato per lui per tutta la giornata sotto il sole cocente e chi aveva lavorato nella sua vigna per poche ore al fresco della sera. A mio parere, quel padrone della vigna, trattando i vignaioli allo stesso modo, senza differenza tra chi aveva lavorato più a lungo e chi aveva lavorato poche ore, fece uno sbaglio grosso e sicuramente una grave ingiustizia sociale. La parabola non racconta del giorno dopo, ma io sono convinto che il giorno dopo i vignaioli, delusi dall'appiattimento, in seguito si siano presentati tutti nel pomeriggio, quando il sole brucia meno, il peso delle ore lavorato è minore e la paga per alcune ore di lavoro corrisponde a quella di un giorno intero. Se facciamo un salto nel tempo, dalla parabola a oggi, un salto di circa 2000 anni, vediamo che purtroppo nulla è cambiato, perché nel nostro tempo, per remunerare le persone del lavoro, non si tiene conto del merito, ma si usa come metro la benevolenza o la cattiveria del datore di lavoro. Ciò significa che non viviamo uno stato di diritto, ma una condizione di concessione che ci è più o meno favorevole in relazione agli interessi di chi gestisce il potere. Estremizzando il nostro pensiero, si può riflettere osservando come la schiavitù dei secoli passati sia tutt'oggi presente nella società, anche se, come avviene nei vaccini, è bene precisare, i virus e la schiavitù c'è, ma sia i virus che la schiavitù sono molto accentuati. La nostra struttura sociale fondata sul lavoro, Costituzione, è così allo sbando perché milioni di italiani non hanno un lavoro per qualificare la loro vita e per sostenere con decoro la loro famiglia. Inoltre, una moltitudine di immigrati, giustamente salvati da una crudele morte in mare, vivono nella terra che li ospita nell'indigenza e nella miseria, creando anche problemi sociali alla nostra popolazione. Tutto questo, in riferimento agli immigrati, perché chi doveva continuare quel salvataggio iniziato in mare non ha interesse oggi a continuare e lascia alla sorte gli sventurati. Ma di chi è la colpa? Con chi ci dobbiamo arrabbiare per le cose che non funzionano e per il disagio che, seppur attenuato, ha radici nello schiavismo che noi tutti abbiamo aborrito come strumento antiumano e socialmente nefasto? Non ci possiamo rivoltare contro il mondo della finanza, perché questo modo di gestire il sociale è supportato da leggi liberticide e si sentono autorizzati a servirsi del frutto del nostro lavoro, indirizzandolo quando a loro sembra opportuno contro di noi. Neppure ci si può mettere contro il capitale, perché questo modo di concepire la società ci può mettere in grande disagio, innescando guerre tra poveri con il trasferimento delle fabbriche. Però, pensandoci bene, possiamo capire chi è realmente la nostra controparte. Dobbiamo contrastare il mondo della politica, che con sillogismi ingannevoli e con quel latinorum di Renzo dei promessi sposi deforma la realtà mentre dice di volerla spiegare e oscura le scelte dannose alla maggioranza dei cittadini, titolandole con terminologie in lingue non comprensibili a tutti. È proprio come faceva Don Abbondio con Renzo Travaglino, che per coprire gli interessi dei suoi assalitori, ricordate i bravi di Don Abbondio, Don Rodrigo, eccetera, gettava la spugna incolpando in qualche maniera colui che era assolutamente da difendere e ragionevolmente innocente, cioè il promesso sposo Renzo Travaglino. Ma ritorniamo ai nostri politici, al mondo della politica in generale. I nostri politici si autoattribuiscono qualità che non hanno e stipendi da favola se comparati con quelli ragionevoli dei cittadini. Se lavori come professionista, come autonomo, come artigiano, come dipendente anche, sai bene che le tue entrate economiche dipendono dalle tue capacità, dalla tua dedizione al lavoro, dai contratti di lavoro collettivi se sei un dipendente e dal tuo impegno personale. Insomma, in quasi tutti i lavori la remunerazione economica è condizionata da terzi, non da te, perché tutti apparteniamo a strutture sociali che, anche se differenti, influiscono sulla nostra redditività economica. Quindi è assolutamente irragionevole che i parlamentari decidano loro stessi l'entità della loro retribuzione. Vi faccio un esempio. Un ragioniere con un reddito medio annuo di 15.000 euro, dati Istat, appena diventa onorevole, si ritrova sempre con un reddito di 15.000 euro, che da annuali diventano mensili. Siamo dunque davanti a una autoreferenzialità e a un accaparramento di denaro, incompatibili con la democrazia e quindi con la nostra carta costituzionale. O no? Politica deforme. Tu che stai ascoltando Radio Big World, cosa ne pensi di queste osservazioni? Possono essere pure stupide oppure centrate. Contatta la nostra radio, esprimi il tuo pensiero e ci potremmo confrontare. Ti saluto e buona giornata. Ciao ciao.